Vi propongo il ragionamento che avevo tentato di fare sul rapporto tra la relazione tra forma e immagine. Sulla relazione tra i due concetti di coercizione e potere. L'arco temporale che ho tenuto un po' presente è l'arco che va dal cantismo fino a Jelinek, passando naturalmente per il folto popolo dei giuristi dell'Ottocento, in generale giuristi che parlano di diritto pubblico, sia in termini di stasre che di urgenze di Kesret e di stasre, e tenendo anche sullo sfondo la lettura dei testi del dibattito della Paulskirche. Non domino, devo dire, bene tutti questi testi perché sono moltissimi, quindi ho cercato di cominciare a tirar fuori le linee, dei modelli di interpretazione, di organizzazione appunto di questo ragionamento. Sono partita da una riflessione, cioè che la deduzione dello Stato dalla coercibilità del diritto, che è considerata durante tutto il Settecento, a partire dall'Ottomanus e poi da Gutenberg più specificamente in poi, come il proprium del diritto rispetto all'etica, ecco, la deduzione dello Stato dalla coercibilità del diritto, in nome del fatto che il suo potere è superiore proprio perché deve difendere il diritto e quindi deve coercire, consegna praticamente il diritto nelle mani dello Stato, e a mano che lo Stato si trasforma da Stato di giustizia in Stato sempre più complesso, quindi sempre più politico, nel senso più moderno del termine, praticamente finisce col consegnare il diritto nelle mani della politica. Ecco, da questa riflessione sono partita, tenendo conto del fatto che appunto questa connessione forte tra coercibilità del diritto e superiorità dello Stato, quindi il concetto di Stato, è tutto sommato nient'altro che un affinamento della ipotesi contrattuale, con la quale del resto si sposa perfettamente, appunto il Kant e il Kantismo è un esempio del fatto che l'ipotesi, uno dei testi della legge, ma non li leggerò naturalmente, che questa ipotesi si sposa bene, e si collega d'altra parte con l'altro elemento forte che è il primato della legge, la legalità, che è l'altro elemento che serve poi alla riduzione all'interno di un'unica forma, la forma diritto appunto, sia del diritto positivo che del diritto naturale, alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento. Ora, a me sembra che questa affermazione che io faccio trovi poi conferma in quella che è la discussione, la recensione, il rifiuto della teoria della divisione dei poteri in Germania. E io ho guardato un po', non c'è quasi autore che non ponga il problema della divisione dei poteri, e direi che tutto il dibattito può essere organizzato, sintetizzato secondo due o tre prospettive di fondo. La prima cosa che mi ha colpito è che in generale non si parla di divisione, di tripartizione dei poteri, non si parla di tre poteri, ma si tende a parlare di due poteri essenzialmente, che sono il potere legislativo e il potere esecutivo. Il giudiziario, in molti autori, viene considerato semplice applicazione della legge e quindi neanche un potere. Cioè addirittura un autore, in questo momento non ricordo quale, che parla di applicazione logica, è una forma logica di applicazione e quindi non si può parlare del giudiziario come di un potere. All'interno poi di questo discorso, cioè di un discorso essenzialmente fondato sui due poteri, la Gesetzgebung e l'esecutivo, ci sono tutta una serie di discussioni sul significato della Gesetzgebung, su quali contenuti, eccetera, con ulteriori differenziazioni, non sto qui a farle. All'interno di questo discorso, in genere, poi emerge la superiorità del legislativo rispetto all'esecutivo. Dico in genere perché in alcuni casi non succede questo, anzi in alcuni casi si pensa che la vera sovranità sia poi nell'esecutivo, non nel legislativo, ma in genere emerge questa superiorità del legislativo rispetto all'esecutivo. E questo mi sembra un aspetto abbastanza interessante, Perché mi sembra abbastanza interessante? È logico che è in armonia con questo primato della legge, però mi sembra interessante per il fatto che mette in evidenza come in fondo il problema della critica alla divisione dei poteri, della non accettazione alla divisione dei poteri, dipenda certamente da tutta una serie di spinte sociali, dal fatto che dividere i poteri significava creare rigida forza, eccetera. Deriva sicuramente da un rapporto con la tematica che poi emerge sempre più chiaramente del principio monarchico, però deriva anche, mette in luce anche, il fatto che dal punto di vista del modo, della forma, secondo la quale potrà essere concepita la sovranità, in effetti il concetto di divisione dei poteri non cambiava nulla, cioè la forma della sovranità rimaneva identica anche all'interno di un tipo di organizzazione statale che poneva come sua premessa, come premessa del suo funzionamento, la divisione dei poteri. E in fondo mi sembra interessante da questo punto di vista tutta la discussione che c'è in vari autori, ma prima che tutti di Kant, sul rapporto tra democrazia e dispotismo. Questo problema si collega naturalmente col problema della rappresentanza che collega prima di Giù. Cioè, Kant cosa dice sostanzialmente? Dice c'è la forma del potere e c'è la forma, c'è la forma della Herrschaft, del dominio, e c'è la forma del governo. Ora, la forma del dominio è quella che può essere anche democratica, ma essa rimane dispotica se non vi è una forma di governo, un uso quindi di questo potere che sia invece di tipo repubblicano. E lui poi, con un tipo di ragionamento che si ritrova abbastanza comune anche negli autori che sostengono il principio monarchico, finisce con dire che quanto più una forma di potere democratico, tanto più è dispotico, tanto minore il numero di persone invece che ha in mano il governo, tanto meglio si raggiunge la forma repubblicana. Questo lo dice nella pace perpetua. Naturalmente è un discorso che sembra paradossale, probabilmente anche all'interno di Kant si confrontano con certi aspetti della res vera, ci sono poi delle trasformazioni, delle riflessioni, dei pensamenti, forse avrà sentito anche lui qualche seminario che ci ha fatto ripensare, però sicuramente questo aspetto c'è. Questo è un primo modello. Un altro modello, secondo me ancora più interessante, di riflessione sul problema della divisione dei poteri, è quello che vede il corpo rappresentativo, quindi riferisco soprattutto a un autore che ho trovato molto interessante, Zöpfler, nel 1841 è l'opera a cui mi riferisco. Comunque il corpo rappresentativo è il corpo che sostiene i Volksrechte, i diritti del popolo. E lui fa tutta una discussione per sottolineare che il corpo rappresentativo che sostiene il corpo di Volksrechte non è un corpo che compartecipa al governo, non ha la partecipazione del governo, non può avere la partecipazione del governo. Quello faceva parte della semplice del passo per l'idea della partecipazione. Invece il corpo rappresentativo, che appunto sostiene il Volksrechte, viene visto quasi come una sorta di contropotere, come una sorta di controsovrano, come se ci fossero due sovranità che sono in competizione tra loro. E questa cosa mi è parsa veramente molto interessante. Non è l'unico questo autore a parlare di Volksrechte, anche all'interno della Faustina, durante il dibattito si sostiene spesso l'idea di Volksrechte in rapporto con l'idea di Grundrechte e di Grundrechte. Quindi mi sembra molto interessante questa cosa ed è anche forse interessante, però dovrei meglio valutarla io stesso, il fatto che in questo autore si trovi anche una distinzione tra Regierung e Verwaltung, non so quanto diffuso almeno in quest'epoca, Regierung e Verwaltung, cioè la prima volta almeno tra gli autori che ho letto che io trovo proprio il concetto di Verwaltung come separato dal concetto di Regierung. e che in questo autore anche si sostenga che il potere giudiziario è quello che è in mano veramente la sovranità e non gli altri poteri. Quindi il potere principe dello Stato è il potere giudiziario. Quindi questo modello mi sembra particolarmente interessante. E io, facendo appunto un lavoro di anche di collegamento di concetti, di forme concettuali, che però sottopongo appunto al controllo degli storici soprattutto, ma al controllo in generale, di conseguenza, meglio di me, seguendo il filo di questo ragionamento, a me sembra di capire molto meglio quella che poi sarà la impostazione di Hegel, di capirla storicamente, di capirla all'interno di una storia dei concetti, di una storia delle formazioni dottrinali. Perché? Perché Jelinek è l'autore che critica l'idea del diritto, che la forma del diritto è la coercizione. Non bisogna pensare alla coercizione. Dice proprio lui, lo dice esplicitamente in più di un'opera, forse in tutte le opere che io ho letto, non bisogna pensare che lo specifico del diritto sia la coercizione, perché altrimenti noi commetteremmo l'errore di considerare come specifico del diritto un qualche cosa che è solamente da applicarsi contro le degenerazioni del diritto, quindi nell'ambito del non diritto. E invece lo specifico del diritto consiste nell'organizzare le relazioni tra le personalità. Ogni diritto è relazione tra personalità. All'interno poi di questo discorso si innesta la sua concezione della personalità del soggetto di diritto pubblico. E io personalmente, nella lettura di Hegel, tendo a vedere come elemento forte questo sostanziale rivelamento, almeno dal punto di vista della forma teorica, del soggetto pubblico suddito, lo dice proprio, e del soggetto pubblico dominante, che ha il dominio, che poi dovrebbe essere lo Stato, ma in realtà poi lo Stato non è. Lo Stato non è perché c'è un altro elemento molto importante in Hegel, che secondo me fa capire, anche collocando storicamente la cosa, il significato della sua elaborazione dei diritti pubblici soggettivi e dei soggetti di diritto pubblico soggettivo. L'altra cosa è la critica fondamentale che lui fa sia dell'organicismo sia della nozione di persona morale. Lui dice, non pensiamo che lo Stato sia una persona morale, questa non so se dica proprio l'espressione persona morale, però dice sicuramente, i concetti che i giuristi usano non sono finzioni, la persona morale è una finzione, i concetti che i giuristi usano non sono finzioni, i concetti che i giuristi usano sono astrazioni, sono forme, ma non sono funzioni. E quindi non è accettabile l'impostazione contrattualistica che sostanzialmente vedeva nello Stato appunto qualcosa di più dal punto di vista della soggettività, in quanto il soggetto Stato è persona morale rispetto al soggetto di diritto pubblico non Stato che non è persona morale. Quindi da questo punto di vista mi pare che veramente ci sia uno sforzo molto forte di mettere sullo stesso piano il discorso del diritto pubblico e del diritto privato, ma non privatizzando per così dire il diritto pubblico, ma pubblicizzando il diritto privato, cioè elevando la categoria di soggetto all'interno di un discorso che riguarda la sfera pubblica. E come lo fa? Lo fa sostanzialmente dicendo che la differenza tra soggettività pubblica e soggettività privata consiste non nella forma delle relazioni, ma nel contenuto degli interessi. Vabbè, naturalmente poi non è che ieri che distrugga lo Stato, perché fa tutto il discorso sul Bonden Können e sul Bonden Dürfen, cioè questa differenziazione forte, quindi non manca naturalmente poi la ricostruzione di tutta la tematica della statualità. Però mi pare che appunto quell'elemento sia un elemento che sposta tutta la visuale e di fatto spiega anche come mai poi alla fin fine, in ultima istanza, secondo Jelinek, l'ordinamento non è privo di lacune. Per cui è possibile senz'altro che le cose procedano e si regolino in rapporto con la regolamentazione delle relazioni tra i diversi soggetti pubblici, i diritti pubblici. Ma ci sono dei casi in cui questa tensione, che è una tensione proprio tra diritti e diritti, più ancora che tra diritti e doveri, secondo il vecchio modello, questa tensione tra diritti e diritti sfocia appunto nella rottura dell'ordinamento e provochi la riorganizzazione dell'ordinamento tentando di superare le lacune che prima l'ordinamento aveva. E mi pare interessante questo perché parallelamente, Helmet non è il solo ad elaborare questa cosa, parallelamente c'è un altro giurista che ho letto, che è, non si sa più chi è, Seidel dovrebbe essere, sì, Seidel, nel 1873 lui scrive, e sostiene, pur senza argomentarla con tutte nella stessa forma di Helmet, però sostiene sostanzialmente una critica forte sia contro l'organicismo sia contro la personalità di persona morale e arriva a sostenere appunto l'idea che l'ordinamento non possa essere compiuto e che quando quel modo di produzione del diritto non possa funzionare, non possa andare avanti, non possa procedere secondo le regole previste dall'ordinamento, ci debbano essere delle fratture forti, ci debba essere la rivoluzione, tra virgolette, che è un altro modo di produrre il diritto, che è un altro modo di costituire lo Stato, che è un altro modo di fare ordine. Allora, mi pare, se questo è vero, mi pare che vengano fuori almeno due cose importanti su cui dovremmo riflettere e che probabilmente possono essere utili sia dal punto di vista concettuale, ma direi anche cioè di costruzione, poi di teorie, ma direi anche e di analisi di quello che succede dopo, ma direi anche di analisi storica e storiografica. Cioè vorrei dire, i concetti in qualche modo possono anche funzionare qualche volta come ipotesi controfattuali che servono a ricontestualizzare i contesti storici precedenti. In ogni caso mi sembra che vengano fuori due cose. La prima riguarda il concetto di individuo in rapporto col concetto di soggetto. La critica del contrattualismo funziona e nello stesso tempo funziona in rapporto con una sostanziale salvaguardia dei diritti individuali, perché l'individuo di cui parla Helmet non è l'individuo, è un soggetto. Quindi si pone tutto il problema della costruzione della soggettività, che si pone sicuramente all'interno del diritto e all'interno, e forse con maggiore acume, all'interno della costruzione del soggetto giuridico, che però non è solamente della scienza giuridica, ma è un po' di tutta la riflessione filosofica, quando la filosofia vuole diventare anche organizzazione di forme scientifiche. Perché il problema della costruzione del soggetto è anche il problema della costruzione della, è anche il problema dell'intersoggettività, quindi del rapporto tra i soggetti. E quindi ecco, importante mi sembra sottolineare questa differenza, perché con questo forse si potrebbe dare anche una piccola indicazione rispetto alle domande che poneva Gustavo Gozzi. Il passaggio da una situazione di tipo contrattuale ad una situazione di tipo costituzionale mi pare segnato proprio anche da questo salto teorico, che è un salto teorico che passa dagli individui ai soggetti. Quindi c'è un'esigenza forte di una teoria della soggettività, che sia della soggettività giuridica, ma vorrei dire forse anche della soggettività politica, che tenga conto appunto di tutte queste differenze. Secondo aspetto, che mi sembra abbastanza importante, e col quale chiudo, perché poi è anche la domanda di fondo che poi ci siamo fatti tutti quanti noi, riguarda l'ipotesi iniziale, cioè l'autonomia del diritto rispetto alla politica. A me sembra che, se è vero quello che ho detto, o comunque sul significato, sulla tesi di Helmet e sul suo significato soprattutto, mi sembra che succeda da Helmet in poi che praticamente non è tanto che il metodo giuridico abbia costruito una nuova concezione di Stato. Il metodo giuridico di Helmet ha distrutto una concezione di Stato. La quale concezione di Stato mi pare diventi inservibile anche nell'ambito della politica. Cioè, una volta che si è la scienza giuridica si è resa autonoma rispetto al politico e ha tentato di fare questo passo, è andata avanti, ha proceduto costruendosi tutti i problemi che riguardano l'amministrazione, mi sembra veramente che poi si colleghi con tutto questo. Ecco, una volta che la scienza giuridica ha proceduto per questa strada, a me pare che il concetto di Stato che noi siamo abituati ancora ad usare sia un concetto che è inservibile anche nell'ambito della scienza politica. E quindi mi pare che l'autonomia del diritto rispetto al politico ponga a noi la questione di capire che cosa vale della politica, se la politica ha ancora un senso, che cosa sia e che cosa siano i soggetti della politica. Thank you.